30.000 euro, cosa ci farei? Ti porterei a cena dove vuoi tu. 30.000 giorni di felicità, ma passeranno in fretta e tu lo sai. Basta una scintilla e la paglia d'improvviso si fa cenere. Sottovoce dici qualche cosa, io non ti capisco perché il mondo grida, dillo un'altra volta. 30.000 dici qualche cosa, io non ti capisco perché il mondo grida, dillo un'altra volta.